Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio, ultima puntata della settimana, ma ritorniamo regolarmente lunedì prossimo, non vi preoccupate. Allora, oggi mutui a 360 gradi. Da quali fatti partiamo? Intanto dall'Euribor, il tasso interbancario è un principale parametro di riferimento per i mutui a tasso variabile nel nostro paese. L'Euribor sembra stia cominciando a porre le premesse per l'inizio di una timida risalita, questo almeno ieri. Oggi scende di nuovo, però insomma cercheremo anche di interpretare questo segnale che ieri abbiamo visto. Poi parleremo, se ci riusciamo, del provvedimento sul tetto del 4% sugli interessi, che per la verità non sappiamo più che fine abbia fatto. Parleremo di mutui più costosi, nonostante i tassi siano su livelli incredibilmente bassi, le banche sono molto rigide a concedere nuovo credito a chi va a chiedere un finanziamento e quindi lo fa a condizioni piuttosto onerose. Gli spread sono in continuo e costante aumento. Abbiamo anche scoperto un'altra cosa, che c'è qualche banca che tenta una variazione peggiorativa dei contratti di mutuo già esistenti, e qualche ascoltatore ci ha segnalato che sta arrivando qualche lettera strana. Allora noi ne daremo lettura di queste lettere per capire se è capitato anche a voi e come ci dobbiamo comportare di conseguenza. 800 24 00 24 è il numero verde a cui siete sempre particolarmente affezionati, in particolar modo quando si pronuncia la parola mutuo. Centralino di Radio 24, non si sa come comincia ad esplodere, ma questo ci fa piacere, segnale anche di fiducia nei nostri confronti, ma soprattutto nei confronti del nostro Maximilian Cellino, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore. Maximilian, bentornato. Buongiorno a tutti. E bentornato anche ad Eustachio Allegretti, che è amministratore delegato di Big Ben Immobili Gestiti, ma anche presidente di Assomea, che è un'associazione di mediatori creditizi di agenti in attività finanziarie. Allegretti, bentornato anche a lei a Salva Danaio. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, il nostro numero verde ve l'ho detto, il numero a cui ci potete scrivere è il 349 238 6666. Peraltro, visto che il settore dei mutui è anche interessato dal pacchetto d'emergenza che è stato varato ieri dal Consiglio dei Ministri all'Aquila, appunto proprio per far fronte alle esigenze delle popolazioni terremotate, allora vi ricostruiamo anche un po' quanto è stato definito ieri da questo Consiglio dei Ministri, che appunto ha varato all'Aquila il decreto legge Abruzzo. In tutto il governo ha deciso di stanziare 8 miliardi e mezzo di euro. 1,5 miliardi servirà per coprire le questioni più urgenti, e gli altri 7 saranno invece utilizzati per la ricostruzione di quell'area. 49 comuni, come sapete, in dissesto nel senso proprio vero del termine. Nessuna nuova tassa né incremento delle accise sulle sigarette o sulla benzina. A Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia hanno deciso di utilizzare altre leve, lo ha spiegato proprio ieri il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei Ministri. C'è una nota nuova, inedita, ed è che per la prima volta si risponde a degli accadimenti come il terremoto e di così grandi dimensioni senza un aumento della pressione fiscale. Non si mettono le mani nelle tasche degli italiani, ma in corso di gestione di una legge finanziaria triennale si spostano spese, si spostano investimenti, si riducono sprechi e si va quindi all'approvazione di un decreto legge che comporta la messa a disposizione di 8 miliardi di euro, 16 mila miliardi di vecchie lire da spendere nei prossimi 3 anni per riportare l'Aquila e i paesi che intorno all'Aquila sono stati toccati dal territorio in condizioni di normalità. Come potranno fare le famiglie dell'Abruzzo a ricostruire la casa che hanno perso con il terremoto? Allora, ci sono due vie. Il decreto per l'Abruzzo prevede lo stanziamento di 150.000 euro per chi vorrà ricostruirsi interamente la casa distrutta da sé, 80.000 euro per chi invece ha una casa solo danneggiata. Sentiamo i dettagli dal ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Se uno ha l'abitazione distrutta, il decreto prevede un meccanismo di conto corrente gratuito, di contributo, fino a 150.000 euro. 300 milioni di vecchie lire. Se tu hai la casa distrutta, hai un meccanismo che sarà poi analizzato, lo vedrete nel decreto legge, però un meccanismo per cui tu hai in banca disponibili per la ricostruzione della tua casa 150.000 euro. Il regolamento poi avverrà non a carico della famiglia, ma in un rapporto che vedrà coinvolte Fintecna, Cassa Depositi e Prestiti e le banche. Se la casa non è distrutta ma danneggiata, lo stesso meccanismo per 80.000 euro. Mutui su abitazioni distrutte o danneggiate, puoi scegliere se conservare il mutuo oppure se abbandonare il mutuo. Se vuoi abbandonare il mutuo e il bene su cui insiste il mutuo, puoi farlo, lo giri alla Fintecna, la quale gestirà il rapporto con la banca e valorizzerà, se del caso, il terreno. Non è tutto, perché tra le altre misure varate a sostegno delle popolazioni terremotate rientrano anche i mutui. Poi noi ne parleremo questa mattina, anche se non entreremo nel merito delle agevolazioni per le popolazioni terremotate. Ci sono agevolazioni su bollette, farmaci, bonus per ristrutturazioni edilizie. Per quanto riguarda il capitolo mutui, le operazioni di rinegoziazione e di ogni altro finanziamento per, appunto, le popolazioni colpite dal terremoto sono, almeno così il governo ha stabilito che sia, sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere. Sono ridotte del 50% le spese notarili, verrà esteso anche ai lavori per le case che sono nelle zone a rischio sismico. Il bonus del 55% che è attualmente previsto per i lavori che garantiscono efficienza energetica. Il pacchetto di aiuti include anche agevolazioni per le forniture di energia, la possibilità di ottenere una scheda SIM per il cellulare, la possibilità di usufruire di uno sconto del 7% sul prezzo dei farmaci generici. Questo è il pacchetto varato ieri dal Consiglio dei Ministri, il decreto legge Abruzzo. Noi però ritorniamo, ci sembrava utile appunto rispiegarvelo, ritorniamo però sul tema di questa mattina, che è invece il tema mutui, più a 360 gradi. Rifacciamo un po' il punto su tutte quelle problematiche che in questo momento le famiglie che hanno un mutuo in corso o quelle che magari hanno in procinto appunto di sottoscriverlo, tutte le problematiche appunto in essere per le famiglie interessate all'ambito mutui. La frenata è arrivata. Dopo mesi di continua discesa, l'Euribor ha timidamente invertito la marcia. Ieri, infatti, il tasso interbancario, parametro di riferimento per i mutui variabili, è salito all'1,406%, dall'1,405% della vigilia. Una variazione minima, certo, che non deve destare preoccupazioni, perché i tassi resteranno probabilmente su livelli storicamente bassi ancora per molto tempo. Ma è pur sempre un segnale. Per chi dunque si accinge oggi a stipulare un nuovo mutuo, la scelta non è semplice. Non c'è dubbio che le condizioni spingano comunque in favore del variabile, considerato che si possono spuntare tassi complessivi sotto il 3%, spread permettendo, mentre il fisso difficilmente scende sotto la soglia del 5%. Ma bisogna comunque prestare attenzione. Il pericolo in questo caso è di farsi attirare da risparmi che nell'immediato possono anche raggiungere i 130 euro al mese su un finanziamento ventennale da 100.000 euro, senza pensare però che in futuro le rate dei mutui variabili potrebbero tornare a salire mettendo in difficoltà le famiglie, come nel periodo 2007-2008, se non di più. Proprio per questo, chi si prepara alla scelta deve valutare con cura, ma soprattutto in un'ottica di lungo termine, la spesa che è in grado di sostenere. Se solo i tassi tornassero sui livelli dello scorso ottobre, la rata mensile di un mutuo ventennale da 100.000 euro a tasso variabile scatterebbe dagli attuali 545 fino a 787 euro. A conti fatti, un incremento del 44%, che può diventare ancora più sensibile per i prestiti a durata più lunga. Ecco perché conviene fare bene i propri calcoli per evitare poi brutte sorprese. 800 24 00 24, prenotate i vostri interventi al numero verde, 349 238 6666 invece il numero che vi dà l'opportunità di scriverci dei messaggi. Allora Maximilian, da che cosa cominciamo? Dei tassi interbancari, questa parzialissima, timidissima risalita di ieri già ci aveva preoccupato un po', oggi c'è già stata di nuovo subito la marcia indietro, però insomma è da monitorare ugualmente questo piccolo segnale che abbiamo visto ieri. Diciamo che gli Euribor si stanno stabilizzando, la discesa è stata vertiginosa nei primi mesi, ottobre, novembre, dicembre, anche i primi mesi del 2009, e poi piano piano è sempre stata più graduale, adesso si sta stabilizzando, anche perché non può ovviamente scendere in eterno. Se parliamo di quella un mese, si è proprio stabilizzato attorno all'1%, oggi è 0,999, per cui 1, ieri era 1,007, per cui 1 praticamente. La media si è stabilizzato, anche perché quello che conta un po' è la Banca Centrale Europea, che potrebbe abbassare il tasso BCE all'1% per l'appunto già il 7 maggio prossimo, e poi non sembra disposta a fare altri, per il momento non sembra disposta a fare altri ribassi. E magari può essere interessante vedere l'Euribor a 3 mesi, che oggi è all'1,40, perché su questo qui si fanno un pochino le previsioni per il futuro, e per questo qui vale ancora un discorso che abbiamo fatto nei mesi precedenti, cioè la crisi del mercato interbancario, quando questi tassi Euribor, tassi interbancari, erano molto più alti di quelli che dovevano essere, proprio perché le banche settembre-ottobre erano al 5%. Esatto, abbondante. Erano al 5% quando il tasso della BCE era al 4,25, per cui c'era una differenza, diciamo, di più di un punto percentuale, addirittura a un certo punto 1,70, 1,80% che era dovuta all'ingessamento, al blocco dei mercati interbancari per la crisi finanziaria succeduta al fallimento Lehman e ad altri problemi simili. Adesso questa crisi è in parte rientrata, la differenza sull'Euribor a un mese non si vede, sull'Euribor a 3 mesi è dello 0,4%, qualcosa di tollerabile. Ecco, quello che dicono gli analisti è che in futuro, se ci sarà un nuovo ribasso dei tassi Euribor, sarà dovuto più che altro a un allentamento ulteriore di queste pressioni sul mercato interbancario, anche perché la BCE, ripetiamo, sembra pensare di rimanere ferma, di arrivare all'1% e poi rimanere ferma lì. Ecco, quindi tra l'altro, ecco, dando un'occhiata al futuro, il tema è anche, adesso, a prescindere poi dai lievissimi movimenti che l'Euribor, a seconda della scadenza considerata, possono fare, comunque i tassi sono a livelli eccezionalmente bassi e probabilmente su questi livelli potranno rimanere ancora a lungo. Bisogna concentrarsi appunto sulla risalita futura, come sarà. E qui i discorsi che si sentono fare sull'economia, sulla ripresa, sarà a V, a U o a L, probabilmente voi l'avrete sentito, ne avete parlato a Salvadanaio, sicuramente avete sentito parlare. Questo vale anche per l'Euribor, capire come sarà la ripresa, se sarà a V, cioè se si avrà un rialzo, non dico così sensibile come il ribasso che abbiamo visto finora, ma comunque abbastanza sostenuto, oppure se avremo un momento di stasi e poi un graduale rialzo, oppure... Anche perché a questo punto, date proprio le politiche espansive che le banche centrali hanno messo in atto, la liquidità in circolazione è tanta, ad un certo punto dovrà essere riassorbita, e il principale canale di intervento è proprio il tasso di interesse. Detto questo, stiamo già affrontando una problematica un po' troppo complicata rispetto a quella che invece ogni giorno i nostri ascoltatori affrontano allo sportello bancario, e le problematiche di queste persone sono: che mutuo faccio adesso se mi voglio comprare casa? Quanto credito mi può erogare la banca in questo momento, visto che le banche sono diventate molto più rigide e severe? Per quanti anni mi indebito e insomma, a che costi sono ho la disponibilità di poterlo fare? Eustachio Allegretti, allora, lei è amministratore delegato di Big Beni Immobili Gestiti, ma è anche presidente di un'associazione di mediatori creditizi, pertanto molte persone verranno da lei e le chiederanno dei suggerimenti su come muoversi in questa fase. In primo luogo, quali sono le risposte che stanno dando le banche in questo momento? Quanto è diventato più costoso chiedere un mutuo, a dispetto della tendenza di cui abbiamo parlato fino a questo momento? I tassi sono molto bassi, ma comunque le banche stanno recuperando sugli spread. Sì, hanno recuperato sugli spread. Gli spread, come lei sa, nel corso degli ultimi mesi sono aumentati in maniera notevole, anche perché le banche hanno giustificato questo aumento dovuto al fatto di un aumento del costo interbancario del denaro, e perché purtroppo le pratiche in contenzioso sono aumentate, e quindi il rischio di maggiore insolvibilità è un aspetto che le banche devono tenere in considerazione. Dicevamo dei tassi: i tassi sono scesi, probabilmente scenderanno ancora di poco o si fermeranno. Il problema è oggi capire che tipo di indebitamento può fare una famiglia. Se già oggi, con i tassi attuali, le famiglie col proprio reddito riescono a fatica a pagare una rata oggi, sicuramente non possono che contrarre un mutuo a tasso fisso, perché un minimo aumento creerebbe problemi all'intero comparto familiare e per molte famiglie riporcheremmo il dramma vissuto già nel 2007, nel 2008. Quindi questa insomma è l'indicazione di buonsenso che si può dare in questo momento. Detto questo però, come dire, magari a parità di importo richiesto la rata con il tasso fisso viene un pochino più alta, quella a tasso variabile è evidentemente molto più vantaggiosa, però presenta tutto il rischio per la possibile lievitazione futura, quindi questo è anche un aspetto da tenere bene in considerazione. Tutto dipende naturalmente da qual è l'importo che è necessario sottoscrivere. Io vi comincio anche a proporre i dilemmi dei nostri ascoltatori e li vedo quasi tutti concentrati in questo momento sui mutui a tasso fisso sottoscritti in passato, che erano molto onerosi e oggi naturalmente paragonati con il variabile che c'è sul mercato, come dire, i sottoscrittori non ci stanno e vorrebbero modificare anche i fissi che hanno in portafoglio. Davide da Lucca, buongiorno. Buongiorno. Davide. Buongiorno. Abbassi la radio, la ringrazio. Mi sente? Sì, sento. Eccoci qua, benissimo. Ci dica tutto. Senta, io ho fatto, siccome volevo comprare una casa nel 2008, sì. 7, sì. Ho fatto un mutuo a dicembre di 2007 con il tasso fisso, era 5,60. Adesso comunque volevo approfittare, infatti rinegoziare, convertire in senso abbassare, in senso cambiare sempre con tasso fisso, solamente che la banca non lo vuole fare, mi costringe di fare, mi costringe per modo di dire. Sì, sì, dice, non le dà l'opportunità di farlo. Solamente mi dice che puoi fare variabile. A questo punto volevo sapere comunque com'è, quelli che dicono non è la verità o si possono anche cambiare con il tasso fisso? Davide, sa com'è, la banca le può dire qualsiasi cosa, se si rifiuta di rinegoziare lei può fare due cose: o decidere di rimanere lì e accettare questo comportamento che la banca ha la facoltà di tenere, oppure scegliere di andare da un'altra parte. Il tema è anche capire se trova qualcosa di diverso rispetto a questo tasso che lei ha già. Ma adesso facciamo intervenire i nostri ospiti su questo tema, però le vorrei mettere insieme anche la domanda di Bruno da Torino, che forse ha la stessa problematica, mi pare. Bruno? Buongiorno signorina. Grazie, buongiorno. Intanto complimenti, io vi ascolto sempre, siete anche utili per tutte le cose pratiche della vita. Noi vogliamo essere soprattutto utili, non grazie. Anche Bruno. Grazie tanto. Ci dica tutto. Io parlo per mia figlia, sì. Ha 32 anni, ha stipulato un mutuo a tasso fisso l'anno scorso in primavera, al 6%. Chiaramente non volendo rischiare col tasso variabile sembrava una buona scelta. E poi invece si è visto che il tasso variabile tutto sommato adesso sarebbe più appetibile. Lei ha cercato nel suo piccolo, guardando su internet, su mutui online, ha cominciato a vedere alcune banche che proponevano dei tassi fissi molto molto più vantaggiosi, comunque vantaggiosi, diciamo un paio di punti percentuali in meno, ma sono specchietti per l'allodole, perché quando è stato il momento di parlare proprio fisicamente con gli addetti allo sportello, viene fuori che il tasso fisso non è il 4%, ma è il 4,4%. Poi quando si va a portare la documentazione dopo aver speso giornate di permessi, perché la gente lavora, mia figlia lavora, viene fuori che questo tasso continua sempre ad aumentare. Alla fin fine mia figlia domanda, dice, ma poi quando ci troveremo davanti al notaio, quanto sarà questo? Le hanno anche detto che avrebbe potuto arrivare al 6%. E lei ha detto, allora io la surroga. Ce l'ho già, è certo. La rinegoziazione con la banca è stata complessa, difficoltosa, perché dalla direzione generale non le volevano fare nulla, ed è stato per questo che lei si è messa in pista per fare la sua. Ha fatto bene Bruno, certo. E poi è riuscita ad avere un 5,32, sì. Che non è male, perché no, è il 6%, però vi dirò che non si fida ad arrivare a rogito, dice lei, insomma, perché potrebbe trovarsi, teme di trovarsi delle sorprese, un tasso più alto al momento della firma. Beh, sa, se capitasse questo, Bruno, la sua figlia si alza, se ne va e non lo sottoscrive, a meno che non abbia firmato un precontratto. Detto questo, Bruno, se lei ha piacere, io ho capito il suo caso. Se volesse ancora argomentarcelo ulteriormente, le devo chiedere un attimo di pazienza perché abbiamo la nostra pausa. Però, insomma, abbiamo capito che c'è una forte rigidità in questo momento ad assumere qualsiasi iniziativa da parte parte bancaria. È normale, data la crisi, certo che però magari qualche famiglia in difficoltà non la ritiene tanto normale. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, mutui a 360 gradi, è sicuramente il vostro tema preferito. Allora, abbiamo ascoltato due casi, quello di Davide da Lucca che nel dicembre 2007 ha sottoscritto un mutuo a tasso fisso al 5,60%, Bruno da Torino ha una figlia di 30 anni, anche in questo caso un mutuo sottoscritto ad un tasso fisso di circa il 6%, in entrambi i casi la domanda è: posso rinegoziarlo per cercare di spuntare con la mia banca qualcosa di più conveniente o, in caso contrario, spostarlo sempre alla ricerca di qualcosa di più conveniente sul mercato? Per la verità, mi faceva notare Maximilian Cellino, giustamente, non abbiamo chiesto le durate di questi due mutui, una variante fondamentale, ma focalizziamo un attimo l'attenzione solo sul tasso. Intanto la ricerca di qualcosa di meglio sul mercato rispetto ad un 5,5%, 6%, Maximilian, è possibile per quello che riguarda il tasso fisso? Ovviamente sul variabile, ovviamente siamo sul 3%, anche qualcosa al di sotto, insomma. Beh, anche qui ho chiesto apposta la durata, perché se si tratta di un mutuo a 10 anni sicuramente sì, se si tratta di un mutuo a 20 anni è già un po' meno facile trovare qualcosa di meglio al 5,60. Si può fare, si può trovare qualcosa di meglio sul mercato, però non vi aspettate grandissime offerte. Come diceva in precedenza Allegretti, gli spread sono aumentati moltissimo, sono ampiamente sopra l'1%, e gli spread vanno sommati ai tassi IRS. Io faccio un esempio: oggi il tasso IRS a 20 anni è 3,97%, diciamo che è il 4%, se una banca vi fa uno spread che è dell'1,40, 1,50, 1,60, ecco che saliamo già a 5,40, 5,50, 5,60. Per cui dico, i margini almeno sul 20 anni per scendere sotto il 5% non ce ne sono molte. Diverso è il discorso sul 10 anni, perché anche qui l'IRS al 10 anni è 3,50%, quindi mezzo punto in meno, per cui è anche più semplice. L'IRS, ricordiamo, insomma, esatto, questo 3,50 ci va applicato lo spread sopra, che potrebbero essere adesso gli spread anche piuttosto consistenti. Allora speriamo, tra l'altro, con questa risposta di Maximilian Cellino, di aver risposto anche a Stefano, che ci chiedeva: io ho un mutuo prima casa per 25 anni al 5,3% fisso, e per 25 anni non mi sembra proprio male. In surroga si trovano variabili al 3,3, il tema è quanto possono durare tassi così bassi. Stefano, alla luce di quello che è successo negli ultimi mesi, ha visto quanto sono precipitati velocemente e magari ci potremmo trovare di fronte ad uno scenario in cui si rialzino in maniera altrettanto veloce. Potrebbe anche non succedere. E allora, se come dire, questa prospettiva vista con timore da chi ha un mutuo, è meglio che il suo fisso se lo tenga. In caso contrario, se ha le condizioni economiche ed emotive per sopportare degli sbalzi d'umore dei tassi così vistose, prenda il variabile, però sappia, alla luce di quello che è accaduto negli ultimi mesi, che non è detto che non si possa ripetere in futuro. I nostri ascoltatori però ponevano anche un altro problema, e su questo chiedo un commento ad Eustachio Allegretti. E allora, si cerca sul mercato la condizione di mutuo che fa al caso proprio, è ovvio, poi prima di andare alla sottoscrizione del mutuo possono passare dei mesi, perché ovviamente prima di andare al rogito ci sono tutte le pratiche da sistemare per la chiusura di un atto di compravendita, e molto spesso gli ascoltatori dicono: andando a rogito troviamo delle condizioni contrattuali diverse rispetto a quelle che pensavamo che erano state inizialmente pattuite. Che si fa, Allegretti, in una situazione del genere? Guardi, in genere il tasso del mutuo viene stabilito o il giorno prima dell'atto o lo stesso giorno, per cui potrebbero cambiare tante condizioni. È chiaro che nel momento in cui si va a rogito bisogna ascoltare con attenzione quello che il notaio legge prima di sottoscrivere, per cui per qualsiasi motivo la banca potrebbe aver cambiato idea, potrebbe aver cambiato tipologia di prodotto, potrebbe aver cambiato addirittura anche piano di ammortamento. Non dimentichiamoci che le banche non sono una onlus, la banca come attività acquista e vende denaro, quindi cerca di acquistarlo a meno possibile a venderlo alle migliori condizioni per lei, per cui non dobbiamo mai dimenticare di ascoltare con attenzione tutto quanto il notaio legge il giorno dell'atto. Non dobbiamo distrarci, non dobbiamo pensare ad altro, perché nel momento in cui poi sottoscriviamo quell'atto di mutuo, quel piano di ammortamento, poi in ogni caso siamo legati, al di là della portabilità o meno, però siamo legati a quelle condizioni. Quindi mai fidarsi di quello che è il preventivo che una banca, un mediatore creditizio, chiunque ti dà nel momento in cui io mi sono affacciato a chiedere una informazione. Bisognerà verificarlo con attenzione perlomeno 24 ore prima della fine. E abbiamo la facoltà di fare questa richiesta alla banca affinché ci documenti quantomeno nel miglior modo possibile 24 ore prima della stipula dell'atto? Assolutamente, sì, e deve darci tutta la documentazione che chiede. Ricordiamoci di un DL importantissimo che è stato approvato, il 185 del 2008, che è, detto è il decreto anche anticrisi, esatto. Ma che dà delle condizioni molto, molto attente alla banca su come si deve rivolgere al cliente, quali le informazioni da dare. Purtroppo il consumatore, l'ascoltatore non è in grado di conoscere tutte le normative, però è una disposizione legislativa molto importante perché dovrebbe mettere, usiamo il condizionale, sempre il cliente nelle condizioni di avere qualunque notizia in maniera esaustiva da parte delle banche. Spesso questo purtroppo non avviene. Ecco, volevo con Maximilian invece, prima di sentire altri ascoltatori, soffermarmi su un altro aspetto, perché il nostro ascoltatore di Torino ha menzionato il motore di ricerca di Mutui Online e lui dice: io lì ho trovato delle condizioni di mutuo che potevano essere adatte per il mio caso, poi però mi sono trovato che andando in banca le condizioni sono molto diverse rispetto a quelle che ho individuato attraverso la griglia che Mutui Online, citiamo questo caso, mi propone. Ricordiamo che ovviamente non è che come dire, l'offerta presentata da Mutui Online è quella che poi noi troviamo allo sportello, si utilizza il canale dell'intermediazione perché questo canale ci permette determinate condizioni, ma non è che possiamo andare con la griglia stampata trovata su Mutui Online in banca per dirgli: guardi, io so che tu fai questa offerta, cara banca X o Y, pertanto perché non me la pratichi, insomma, questa che ho trovato su Mutui Online. Sono solo spiegata in maniera corretta, Maximiliano. Si può provare ad andare in banca, ma non si può pretendere che la banca faccia le stesse condizioni, perché le condizioni di Mutui Online, così come quelle di altri broker, sono ovviamente scontate, hanno delle convenzioni particolari. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che le stesse condizioni che ci sono su questi broker online vanno lette per bene, perché uno magari si vede un bellissimo tasso che è fisso, che è al 4%, e poi in realtà deve andare a vedere il tasso complessivo, l'indice sintetico di costo, che comprende tutte le varie spese, poi non soltanto quella del tasso nudo e crudo, che spesso è un pochino più elevato. E poi bisogna anche fare attenzione, perché per ottenere, specialmente negli ultimi tempi, per ottenere tassi più vantaggiosi, le banche fanno sottoscrivere delle assicurazioni facoltative, di cui abbiamo già parlato anche qui in trasmissione a Salvadanaio. Sono assicurazioni che permettono al mutatario di avere la copertura nel caso perda il lavoro, oppure anche nel caso di un infortunio, oppure addirittura della vita, in caso morte del mutatario, che sono strumenti sicuramente che hanno un suo senso, però ecco, quello che è importante, che la persona deve sapere, che non possono essere di ostacolo, non sono obbligatori per sottoscrivere il mutuo. Qual è il problema? Che questi strumenti comunque hanno un certo costo. Che poi alla fin fine portano il prezzo del mutuo molto più elevato. Possono essere utili, sull'utilità se ne può discutere, ripeto ancora una volta, però non possono essere obbligatori. L'unica assicurazione obbligatoria è quella per incendio e scoppio dell'abitazione. Perfetto, tra l'altro poi su tutta la questione assicurativa legata alla casa, anche alla luce delle problematiche emerse con il sisma in Abruzzo, noi ci ritorneremo anche la prossima settimana, questo per anticiparlo ai nostri ascoltatori. Sentiamo un altro paio di amici che ci seguono da casa per poi rispondere a loro dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Volevo sentire Francesco da Padova, che ci pone invece una questione, come dire, di una trattativa conclusasi positivamente. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Sì, io avevo stipulato nel 2007 un mutuo a tasso fisso trentennale. Poi con i mutui i tassi si sono abbassati, visto che l'IRT era sceso di parecchio. 3 mesi fa ho provato con la mia banca, se posso anche dirla. Ma certo. Nel Monte Paschi ho provato a rinegoziare. La banca inizialmente mi aveva messo dei paletti, mi ha detto no, non è possibile rinegoziare un mutuo a tasso fisso. mi sono girato in altre banche, altri istituti, online, anche andando direttamente agli sportelli, sono riuscito ad avere un contatto con un'altra banca che era disposta a rinegoziare, a fare la surroga. A surroga, certo. Ad un tasso migliore di quello che avevo. Per punto la mia banca mi ha rinegoziato il tasso, sono passato da un 5,65 a un 4,60. Accidenti! Senta, quanto le ha fatto pagare questa rinegoziazione? È stata totalmente a titolo gratuito? Totalmente gratuita. Complimenti. Totalmente, non ho pagato nulla. Mi sono dato molto da fare, quello sicuramente. Beh, sa com'è, come per ogni regolare trattativa si gioca a rialzo, a ribasso, però ha spuntato un'ottima condizione, Francesco, quindi si tenga caro questo mutuo a questo costo. La ringrazio per la sua testimonianza, un plauso anche all'Istituto Senese e sono sicura che Maximilian già andrà ad indagare anche su questa cosa. E andiamo avanti con i nostri ascoltatori. Dunque, chi è che aspettava? Massimiliano d'Alessandria, allora, ci contesta un po' come poniamo il problema? Ma buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono un normalissimo promotore finanziario, dedito ormai da qualche tempo al mercato delle erogazioni. Sì. Il problema del tasso fisso e tasso variabile è un po' il sesso degli angeli. Oggi conviene il fisso, conviene il variabile, domani converrà il fisso. Cioè sì, non si può, perché il futuro nessuno lo sa. Vabbè, ma almeno su questo siamo d'accordo, Massimiliano. Allora, se lei ci segue, sempre la poniamo in questi termini la questione. Certo, lo riconosce o no? Ecco. Chiaramente, però forse ci sono dei metodi per... io cosa faccio? Io oltre personalmente avere un tasso variabile, il mio mutuo personale è un tasso variabile, consiglio sempre ai miei clienti un tasso variabile. Perché? Perché anche facendo dei semplici grafici dell'Euribor degli ultimi 10 anni, quindi abbiamo visto di tutto, momenti molto alti, momenti molto bassi, questi poi sono momenti eccezionali. Però cosa si può fare, secondo me? Chi vuole sottoscrivere un mutuo oggi fa un variabile, perché il risparmio è evidente, perché da un 3 medio, certo, a 5,20 è evidente, sulla rata è molto sensibile. Uno potrebbe dire, la differenza, già fisso la differenza, e se sono disponibile a pagare un tasso fisso per essere sicuro, sono anche disponibile a investirlo questi 100 euro, diciamo, medio. Però mi scusi, Massimiliano, io ho capito il suo ragionamento e guardi che parzialmente lo condivido, però io mi chiedo, lei a tutti i clienti indistintamente da un suggerimento di questo tipo? Io capisco che adesso c'è una convenienza economica che magari per il futuro sarà irripetibile, però se in questo momento viene da lei una famiglia con 2 persone che lavorano, hanno, ammettiamo, un ingresso di reddito di 2000 euro al mese, la rata a tasso variabile adesso è di tipo 700 euro per il mutuo di partenza. Voglio dire, se a queste persone il tasso di riferimento gli ritorna, parliamo dell'interbancario, al 5%, come è successo a settembre, per questa famiglia le condizioni cambiano radicalmente. Quindi se la rata di partenza è estremamente bassa, va benissimo. Non va proprio in questi temi. Il problema è, se tu hai bisogno di questi soldi, oggi sei disponibile a pagarne 1000 o 700? Il problema è solo questo. Perché magari 1000 io adesso non ce la faccio, ma 700 sì. Cioè il problema è, stiamo lì, allora non mi faccio mutuo, cioè il tasso fisso è un tasso che uno guarda, poi mi è conveniente oggi risparmiare i 100 euro sulla rata e magari accantonarli senza toccare in conto. Ma il tema è questo, c'è la possibilità di accantonarlo questo denaro? Certo che c'è la possibilità, adesso con gli strumenti, un semplice PAC su un fondo obbligazionario negli ultimi 10 anni, il peggiore che c'è, ha reso un 3%, moltiplichiamolo per 5 anni di interesse annuo. Secondo me, poi non è un calcolo che uno può fare, ovviamente, ripeto, è un metodo, cerca di fare. No, ma Maximiliano, io ho capito perfettamente. Oppure, secondo me, però, le famiglie che si sono trovate in difficoltà col variabile lo scorso anno non erano famiglie che avevano fatto esattamente questo ragionamento, cioè che aveva fatto il variabile ovviamente indebitandosi per il limite massimo del reddito disponibile, no? Quindi il rapporto reddito-rata era stato completamente sbilanciato, però insomma sono questioni che già abbiamo affrontato più volte in passato. Massimiliano, vorrei dare la linea anche ad altri ascoltatori, però insomma il suo principio l'ho capito. Eustachio Callegretti, lo condivide? Lo posso condividere unicamente nel caso in cui il contraente il mutuo sia un soggetto autonomo, cioè un soggetto la cui redditività totale o principale deriva da utilità autonoma, che sia un professionista, un artigiano, un commerciante, un industriale. Ma quando ci troviamo nella maggior parte dei casi dove entrambi i contraenti o l'unico contraente è a reddito fisso, e abbiamo visto negli ultimi anni che il coefficiente di indebitamento delle famiglie, quanto è salito e quanto si è ridotto il potere di acquisto delle famiglie, poter a cuor leggero dire a queste: sottoscrivete un mutuo a tasso variabile, perché tanto oggi te lo puoi permettere, dopo vediamo che succede, io ritengo che non sia eticamente corretto. Allora, Maximiliano, volevi... No, si fa un ragionamento che ha sicuramente un senso, quello di Massimiliano, e ci mancherebbe, è anche il suo lavoro. Fa, secondo me, a mio parere, mi avviso, un po' troppo affidamento sulle capacità di gestione... Di gestione del risparmio di una famiglia. Ammesso che questa famiglia abbia possibilità di risparmiarli questi soldi, perché molti, come diceva in precedenza Deborah, probabilmente non avevano la possibilità di metterli via, semplicemente avevano fatto dei variabili nel 2005-2006 perché quello si potevano permettere, esatto, e poi addirittura il fisso di allora non se lo potevano permettere. Quindi o questo, e se una famiglia ha invece la possibilità di accantonare, deve poi essere in grado di farlo. Lei citava i PAC, giustamente sono strumenti di investimento interessanti, gli strumenti di investimento giusti, 100 euro al mese li mettiamo via, però non tutti sono in grado di fare un ragionamento del genere. Lei presuppone una maturità che in questo momento, a mio avviso, non esiste. Però è un tema interessante, affascinante, e magari ci ritorneremo. Volevo, prima di sentire gli ultimi due ascoltatori di oggi, sottoporvi anche la vostra attenzione a una lettera che ci è arrivata qualche giorno fa di un'ascoltatrice di Trento. La sintetizzo rapidamente: cliente di una cassa rurale trentina, ha un contratto di mutuo sottoscritto con un tasso variabile che è arrivato ovviamente a livelli molto molto bassi. La nostra ascoltatrice dice che ha ricevuto una lettera da parte della propria banca in cui è stata presa una iniziativa appunto di variazione contrattuale unilaterale. Adesso non ho ben capito che tipo di condizione nuova la banca le propone, ma sicuramente praticamente blocca la riduzione del tasso, che sta comportando una continua riduzione anche della rata. Quindi Maximilian, quindi abbiamo individuato il cosiddetto floor di cui abbiamo parlato anche altre volte, la banca può bloccare questa discesa dunque? Allora, è un tema che è dovuto firmare un modulo di consenso, esatto, quindi non era inizialmente. Esatto. È un tema di cui ci siamo occupati anche nel dossier Muti 24, e la domanda di un caso simile l'avevamo girata direttamente al Consiglio Nazionale del Notariato, che aveva risposto che la facoltà di modificare unilateralmente, perché qui si tratta di una modifica unilaterale della banca, delle condizioni economiche contrattuali è possibile, si chiama il cosiddetto ius variandi, però è possibile in casi un po' particolari. Perché questa possibilità deve essere stata espressamente prevista nel contratto di mutuo e approvata dalla persona. Però qui non viene solo il dubbio che la banca, chiedendo un consenso... No, non solo, appunto, ci deve essere prevista nel contratto, e poi bisogna seguire una procedura, un iter particolare. Ci deve essere un giustificato motivo, e qui il giustificato motivo, la banca avrà detto che i tassi non possono scendere così in basso perché non ce la fa. Esatto. E la procedura che è particolare, perché questa variazione deve essere comunicata espressamente al cliente dicendo che è una proposta di modifica unilaterale del contratto, con un preavviso minimo di 30 giorni in forma scritta o mediante un altro supporto. Dopodiché la modifica si intende approvata se il cliente appunto dice espressamente di sì, oppure anche se il cliente dà un tacito assenso. Se il cliente entro 60 giorni non risponde, si intende tacitamente approvata. Cosa può fare il cliente? Ben poco. L'unica cosa che può fare è che può recedere dal contratto senza spese, quindi può andare a cercarsi un altro mutuo senza spese, altrimenti è costretto ad accettare questa variazione unilaterale. Però ricordo che deve essere espressamente prevista dal contratto che avete firmato all'inizio. Allora, 10 secondi di tempo ad Eustachio Allegretti, so che ne meriterebbe molti di più, ma non ci riesco, non riesco a far intervenire gli ascoltatori, ma Fulvio da Genova ci chiedeva: per abbassare la rata volevo fare estinzione parziale, qualche consiglio, la farebbe Allegretti? Io gli dico la verità, sì, se avessi la possibilità me lo toglierei di torno il mutuo, però anche qui siamo nell'ordine delle scelte individuali, insomma, se questo gruzzoletto poi ce ne priviamo completamente magari non è neanche la scelta giusta. Allegretti? Sì, diciamo di sì che l'estinzione parziale sembra una possibilità che purtroppo ultimamente come casistica è molto diminuita. Non però ci sono se questo soldi. Dà la possibilità di scendere ancora di più la rata e quindi che la rata sia un discorso quasi ininfluente nel bilancio familiare non è male, insomma, certo. Anche perché sappiamo benissimo che la redditività oggi che il denaro ti dà in banca è bassissima. Bisogna vedere anche quanto costa, certo, quanto costa questa operazione, l'estinzione parziale, l'estinzione totale del mutuo costa meno rispetto al passato, anzi le penali di estinzione sono state anche eliminate per i mutui fatti da un determinato periodo di tempo in avanti, quella parziale quanto costa, informiamoci e valutiamo. Grazie a Maximilian Cerina, da Eustachio Allegretti, sono in ritardo come al solito, Salva Danaio torna lunedì, buon fine settimana a tutti. Salva Danaio.